Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Bufera sui pedaggi a Roma, sulla Roma Fiumicino sarebbe una vergogna, attacca Zingaretti. Risponderà in diretta a Radio 24 il presidente dell'ANAS, Ciucci. Manovra, giornata di proteste, scioperano i magistrati, le regioni riunite, l'emendamento proposto dicono non serve a nulla. Intercettazioni, oggi i giornalisti in piazza contro il DDL Alfano. Siena discute sul palio dipinto da un artista musulmano. Un ristorante del Cairo vieta l'ingresso alle donne velate. Penso che non sia una cosa regolare, no? Tu raccordo anulare a far pagare il pedaggio, non mi sembra una cosa giusta. Sul raccordo anulare non esiste il pagamento. Se lo mettono non lo faccio più il raccordo anulare, faccio un'altra strada. Vabbè, comunque fa parte della crisi. Non sono d'accordo, assolutamente, perché è troppo invasivo per le tasche dei cittadini. Basta, basta, paghiamo troppo, pure il pedaggio di 2 chilometri dobbiamo pagare, non è possibile. Voci raccolte questa mattina sul raccordo anulare di Roma e poi ancora, sempre sullo stesso tema, mettere il pedaggio sulla Roma Fiumicino è una vergogna, una vera e propria follia, ha detto il presidente della provincia di Roma, Nicola Zingaretti. Ieri il sindaco di Roma, Alemano, lo ricorderete, minacciava: se mettono il pedaggio sul grande raccordo anulare vado io con la macchina e lo sfondo. E la governatrice Polverini oggi: non si può gravare sui pendolari in un momento di crisi. Con noi per rispondere a queste obiezioni c'è il presidente dell'ANAS, Pietro Ciucci. Buongiorno. Buongiorno. Roma è sotto assedio, insomma, la vorreste spennare, così? Non è assolutamente così. Sentivo le voci di alcuni utenti del raccordo anulare. Chi utilizza il raccordo anulare come fosse una via urbana, come facciamo molti noi romani, non pagherà assolutamente il pedaggio. Il pedaggio riguarda chi viene da fuori Roma, chi utilizza le autostrade che convergono su Roma, da nord, da sud, da est. In quel caso il raccordo anulare non è altro che una prosecuzione dell'autostrada stessa e il pedaggio sarà proporzionato ai chilometri che effettivamente vengono percorsi. Lei ci ha detto dove e quando accadrà questo, quando ci saranno gli aumenti? Oggi è 1° luglio, da oggi sulle barriere delle autostrade che convergono su Roma viene applicata questa maggiorazione in via transitoria forfettizzata di massimo di un euro, ma ci sono delle riduzioni per il traffico pendolare, per chi fa pochi chilometri. In base a quello che è previsto dalla legge, dalla manovra finanziaria, entro la fine del prossimo anno doteremo il raccordo anulare e le altre autostrade in gestione di ANAS di strumenti tecnologici per l'esazione del pedaggio. Non costruiremo nuovi caselli, sistemi che ci consentiranno di applicare un pedaggio proporzionato ai chilometri che ciascuno farà. Roma Fiumicino compresa, insomma. Roma Fiumicino è un'autostrada e la legge fa riferimento alle autostrade in gestione da parte di ANAS. Senta, lei oggi è stato a Eboli, provincia di Salerno, per l'inaugurazione, leggo, di un nuovo svincolo autostradale. Si pagherà? La Salerno-Reggio Calabria è un'autostrada. Il provvedimento attualmente all'esame del Parlamento, il decreto legge in vigore, fa riferimento all'introduzione dei pedaggi sulle autostrade in gestione ad ANAS. Questo avverrà entro la fine del prossimo anno. I criteri del pedaggiamento verranno fissati da un decreto del governo. Il pedaggio riguarderanno i tratti della nuova Salerno-Reggio Calabria quando saranno completati, e molti sono già stati completati, e sarà, come dicevo, proporzionale comunque ai chilometri percorsi e terrà conto delle esigenze dei pendolari che fanno un uso frequente dell'autostrada. Pendolari che hanno bisogno magari di vedere davanti a sé in futuro garanzie di servizi che vanno migliorando. Questo lo garantirà il pedaggio? Mettere il pedaggio cambierà le cose? Noi continueremo a migliorare il servizio, così come, se ci riferiamo alla Salerno-Reggio Calabria, già stiamo facendo da anni. La Salerno-Reggio Calabria è una grande realizzazione, un'opera tecnologicamente avanzata, un'autostrada lunga 440 chilometri che stiamo ricostruendo, non allargando, ricostruendo una nuova autostrada in presenza di traffico. Abbiamo già completato oltre 200 km dei 440, siamo a metà dell'impegno, abbiamo oltre 150 km in corso di costruzione che verranno completati tutti entro il 2013. Grazie Presidente, buon lavoro, di sicuro ne avrà nei prossimi giorni. Non solo pedaggi però oggi, i rincari dal 1 luglio arrivano anche per altri servizi, facciamo il punto. Dopo 6 mesi di prova arriva la tariffa bioraria. L'energia elettrica costerà di meno 0,5% dalle 19 e fino alle 8 del giorno dopo, nei giorni feriali così come al sabato, la domenica e nelle giornate festive, mentre i prezzi saranno più elevati dalle 8 alle 19 dei giorni feriali. Da oggi invece aumenta il gas naturale del 3,2%. Il rincaro del prezzo del metano, secondo l'Authority, è dovuto alla scarsa concorrenza e all'incremento delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi. Per una famiglia tipo, questa variazione comporterà un incremento della spesa per il gas di 32 euro su base annua. Da oggi inoltre i notai fanno i conti con gli adempimenti stabiliti dalla manovra. Ci dovrà essere rispondenza tra quanto indicato nei contratti di compravendita e quanto richiesto per le registrazioni e i dati catastali. Infine, da oggi banche e poste devono applicare le ritenute del 10% ai bonifici per pagare le ristrutturazioni che fruiscono delle detrazioni del 36,55%. Andiamo alle ancora numerose proteste sulla manovra economica. Le regioni si sono riunite oggi in seduta straordinaria. Scioperano i magistrati, in piazza i sindacati di polizia. Contro la manovra e il DDL Gelmini, gli studenti occupano il rettorato della Sapienza di Roma. Lo sciopero contro il decreto Bondi sulle fondazioni liriche farà saltare stasera la prima a Roma del balletto Romeo e Giulietta. E assemblea generale per i dipendenti della Scala, insomma ce n'è per tutti. Cominciamo dalle regioni con Maria Chiara Grandi, in diretta con noi. Sì, buongiorno. La riunione dei governatori è ancora in corso qui a Roma, potrebbe terminare a breve. Qualche notizia arriva da chi deve lasciare il tavolo prima del termine dell'incontro, come l'assessore al bilancio della Lombardia Romano Corozzi, che oggi sostituisce il presidente Roberto Formigoni. Le regioni sono assolutamente unite in attesa della convocazione del premier Berlusconi per discutere dei tagli, spiega, un incontro che tuttavia ancora non è stato convocato. Questa mattina la conferenza delle regioni vota probabilmente all'unanimità, dice Corozzi, un documento in cui si ribadisce il giudizio negativo sulla manovra, opinione espressa già dal presidente della conferenza Vasco Errani, che parla di pace e accordo con il governo solo dopo una modifica del testo. Per il presidente dell'Emilia Romagna, inoltre, l'emendamento del relatore del Popolo della Libertà, Antonio Azzolini, è addirittura peggiorativo. Sentiamo. L'emendamento di cui che ha presentato il relatore è un emendamento che non risolve il problema, anzi per alcuni versi rischia di aggravarlo. Se si taglia le risorse relative a competenze su 4 miliardi, le competenze relative alla Bassanini, trasporto pubblico locale, fondo delle imprese, eccetera, valgono poco più di 3 miliardi. Se quelle risorse non ci sono più, come le ridistribuiamo? Oggi, a margine della riunione sulla manovra, si parla anche di federalismo dopo la relazione di ieri dei ministri. Una relazione offensiva, delegittimante e semplicistica per Colozzi, che è anche coordinatore degli assessori al bilancio delle regioni. Di quadro generale, lontano dall'essere chiaro, parla il presidente della conferenza, Vasco Errani. E da Roma è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandi, se avete sentito il presidente delle regioni, Vasco Errani, è stato erroneamente mandato poco fa al posto di Azzolini. Comunque il senso del discorso era assolutamente chiaro. Tra le grandi proteste, come dicevamo oggi, c'è anche quella dei magistrati che sono scesi in sciopero, ci sono in agitazione anche i prefetti. Alessandra Schepisi. Buongiorno, per la prima volta in maniera corale tutti i magistrati ordinari, amministrativi e contabili incrociano le braccia e sospendono le udienze, protestano contro quelli che definiscono i tagli iniqui e punitivi sulle loro retribuzioni imposti dalla manovra. Uno sciopero che dunque le toghe hanno confermato, nonostante l'annuncio del governo di un emendamento in arrivo per rivedere la parte riguardante la loro categoria. L'iniziativa è però fortemente criticata dal vicepresidente del CSM, una reazione eccessiva, dice Mancino, che invita invece al dialogo e alla trattativa governativa, serve più prudenza, spiega Mancino in apertura del plenum, giudicando male usato l'accenno all'autonomia e all'indipendenza rapportate al trattamento economico. Insomma, sbagliato dire che se il livello retributivo è basso l'autonomia non c'è. Dichiarazioni alle quali replica stizzito il presidente dell'ANM Palamara: noi siamo stati sempre per il dialogo e Mancino dovrebbe saperlo. Contro la manovra si scagliano anche i prefetti con una mobilitazione a Roma. È un provvedimento che, dicono, riduce sensibilmente le capacità dello Stato di assicurare la sicurezza dei cittadini. Protestano in tutta Italia anche i sindacati di polizia. Con questa manovra ci saranno meno volanti e meno commissariati. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Financial reform was like, I'm quoting here. È il presidente degli Stati Uniti che commenta il via libera della Camera alla riforma del sistema finanziario americano. Tra i punti cardine, una nuova autorità di regolamentazione, un consiglio per supervisione stabilità finanziaria, la creazione di un'agenzia a tutela consumatori e standard di capitale nuovi basati sulla taglia e sul rischio. Intanto in Europa mercati ancora in agitazione. Facciamo il punto di quello che sta accadendo con Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. La giornata era partita davvero in maniera pessima. Adesso, per la verità, le borse europee sono in recupero a metà seduta dopo l'esito positivo dell'asta della Banca Centrale Europea a 6 giorni. Già ieri gli istituti bancari avevano preso a prestito quasi 132 miliardi di euro, la metà delle attese. Oggi 78 istituti ne hanno chiesti altri 111 nella parte alta della forchetta di previsioni. E quindi, secondo gli operatori, l'esito delle due aste sembra indicare che il sistema bancario versi in una situazione migliore quanto a liquidità di quanto non si fosse temuto nei giorni scorsi e quindi abbia fiducia nella capacità di rifinanziarsi sul mercato interbancario. Dicevamo situazione miglioramento, Parigi e Milano sono arrivate a perdere circa 2 punti, adesso abbiamo un calo dell'1,3 dello 0,7% rispettivamente, Francoforte perde lo 0,6, Londra lo 0,8, un altro problema è quello della Spagna, Moody's ieri ha emesso un verdetto sul debito sovrano iberico, ha detto adesso lo mettiamo sotto osservazione per un possibile downgrade, però oggi dalla Spagna è arrivata una buona notizia perché è riuscita a collocare sul mercato 3 miliardi e mezzo di euro di obbligazioni a 5 anni con una richiesta da parte degli investitori che è stata praticamente doppia rispetto all'offerta, per cui ecco, come al solito, acque agitate sui mercati in attesa di schiarite domani dati sulla disoccupazione americana. Laura. Grazie a Deborah Rosciani. Andiamo al Mondiale di calcio, vigilia dei primi 2 quarti di finale a Sudafrica 2010 con Olanda, Brasile e Uruguay, Ghana, che domani decideranno le prime 2 semifinaliste. In casa azzurri, intanto, dopo il fallimento africano, oggi inizia il dopo Lippi. Al via l'avventura di Cesare Prandelli, nuovo CT della Nazionale, che sarà presentato stamattina a Roma. Prandelli lo sa già, oggi dovrà indossare la sua faccia migliore, la più distesa e sorridente, dovrà vendere ottimismo e incassare fiducia. Dovrà essere il più trasversale possibile, cavalcare ogni voglia, non dire mai di no a nessuno, sia Cassano o Barotelli. Prandelli dovrà parlare a un paese sull'orlo di una crisi di nervi, caduto nel punto più basso della sua storia calcistica. Così dicono le statistiche mondiali. Come avrete sentito dire dal vostro architetto, costruire è più semplice che ristrutturare. Allora parta da lì, Cesare, lasciando solo intravedere le linee di un progetto tutto nuovo. Abbiamo voglia solo di questo. Poi un po' di fumo che non guasta mai, qualche effetto speciale, come Pianigiani, CT di un'altra nostra nazionale tutta da rifare, quella del basket. Siamo pronti a dare l'anima, è un'Italia che durerà nel tempo, ha detto Simone, che poi non significa nulla di concreto, ma fa morale per un paese depresso. Faccia così anche Cesare Prandelli, tanto il 10 agosto, quando debutterà la sua prima Italia, avremo secchiello e palette in mano e altro che non siano i mondiali in TV a cui pensare. Carlo Genta, GR24, Il Sole 24 Ore. GR24, le principali notizie di cui abbiamo parlato nella prima parte del nostro giornale radio. La bufera sui pedaggi a Roma, sulla Roma Fiumicino, sarebbe una vergogna, ha attaccato il presidente della provincia Zingaretti. A Radio 24 ha risposto in diretta il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci: nessun assalto a Roma, solo misure previste in finanziaria e che saranno progressive nel tempo e limitate al chilometraggio, l'origine di provenienza del viaggiatore che viaggia appunto su Roma. Abbiamo parlato poi di manovra, giornata di proteste, scioperano i magistrati, le regioni sono riunite e dicono l'emendamento che è stato proposto alla manovra economica non risolve nulla. Allora, come anticipato, parliamo adesso della manifestazione che si terrà a Roma, ma non solo, anche a Milano e in altre città d'Italia, contro il DDL sulle intercettazioni. In piazza scendono i giornalisti, ma anche molti studenti, rappresentanti del mondo della cultura e dell'opposizione. Il PDL ieri ha ottenuto che il provvedimento arrivi in aula alla Camera il 29 di luglio, subito dopo la manovra economica. Accelerazione che il presidente della Camera, Fini, ha comunque definito irragionevole. Il capogruppo del PDL al Senato, Gasparri, ha ribadito che non si tratta di legge bavaglio. Il testo della legge modificata dal Senato è molto meno restrittivo di quello licenziato dalla Camera nel 2009, ha osservato Gasparri. E invece la presidente dei senatori del PD, Finocchiaro, ha insistito: gli atti pubblici siano pubblicabili. Il nostro sondaggio vi chiedeva oggi cosa ne pensate voi, ovvero ritenete opportuno che i giornalisti manifestino? Il 69% degli ascoltatori della radio ha detto sì. Sentiamo Franco Siddi, segretario nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e sindacato dei giornalisti, che ha promosso l'iniziativa. Il problema che si pone è il problema della stampa, della disponibilità dell'informazione necessaria per farsi libere opinioni, dell'informazione necessaria per capire com'è il paese in ordine alla sicurezza, in ordine alle vicende politiche, in ordine agli affari politici, quelli puliti e soprattutto quelli meno puliti quando finiscono sotto la lente della magistratura. Tutto questo si tenta di negarlo per legge. Mi pare che quindi ci sia una privazione di libertà per tutti i cittadini, una privazione di un bene, l'informazione, che è un bene pubblico, indisponibile per il governo, indisponibile per i proprietari dei giornali, indisponibile anche per i giornalisti, se non per, affinché i giornalisti lo mettano a disposizione dei cittadini. Così Franco Siddi al microfono di Alessandro Milan a Mattino 24. Intanto si torna a lavorare sul lodo Alfano, che non sarebbe sufficientemente chiaro nel prevedere, anche in favore del Premier e dei ministri, la sospensione dei processi cominciati prima dell'assunzione della carica. Di qui la necessità di presentare un emendamento per colmare la lacuna. La proposta è contenuta nel parere sul lodo che la Commissione Giustizia del Senato, presieduta da Filippo Berselli, dovrebbe consegnare giovedì a quella degli Affari Costituzionali. E poco fa di intercettazioni e di lodo Alfano ha parlato Umberto Bossi, lo sentiamo al microfono di Giovanni Capuano. Sei d'accordo con le intercettazioni? Dici di no, nessuno vuole essere intercettato a casa sua, sul proprio telefono, quindi si deve trovare la via, la mediazione, la troveremo, la mediazione la troviamo. Le piace il lodo Alfano esteso, come si paventa in queste ore? Presidente del Consiglio, come fa andare un paese, non gli devi qualcosa, qualcosa gli devi. Sullo stabilimento di Pomigliano d'Arcola, Fiome è pronta a riaprire la trattativa se la Fiat rispetta le leggi, lo ha detto il segretario generale Maurizio Landini all'assemblea del sindacato dei metalmeccanici. Sentiamo Landini al microfono di Paolo Picone. Si vuole la firma della Fiome? Si vuole recuperare il consenso? Visto che il voto in un qualche modo ha detto delle cose precise, si riapre la trattativa. La Fiat riapra la trattativa. Riapra la trattativa, tolga dal tavolo quelle cose che non esistono, dalla lesione del diritto di sciopero alla malattia, e in più ci permettiamo di ricordare che, e so di dire una cosa che non è poco per i lavoratori, il contratto nazionale di lavoro, senza bisogno di derogarlo, senza bisogno di inventarsi ulteriori deroghe, se vuole, può permettere alla Fiat di arrivare a fare anche i 18 turni. Il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha definito un'azione straordinaria quella effettuata oggi a Milano dalle forze dell'ordine contro l''Ndrangheta. Arrestati 15 membri di un clan dell''Ndrangheta, sequestrati 100 immobili, 28 società, per un valore di diversi milioni di euro. Il clan avrebbe sistematicamente sottoposto ad usura imprenditori in difficoltà. È la prima operazione mirata proprio contro le infiltrazioni dell''Ndrangheta attorno all'Expo. Questo è proprio il metodo che loro seguono, l'usura, per poi prendere a poco o a niente le società, negozi, esercizi commerciali e infiltrarsi nel tessuto sano dell'economia. Tutto questo è nato negli anni 70 con quel famigerato istituto del soggiorno obbligato che la Lega per prima denunciò proprio perché vedeva il rischio di infiltrazioni mafiose, e oggi abbiamo la conferma. Così Maroni commenta l'operazione il presidente di SOS Impresa, Lino Busà, al microfono di Adriana Fracchia. È una notizia sicuramente positiva e dimostra sostanzialmente due cose. La prima è che cresce il peso delle organizzazioni criminali, dell''ndrangheta in particolare, ma anche della camorra, nell'attività usuraia. E come questo gruppo, che era vicino a Clan di Stefano, cioè uno dei più potenti del Reggino, fosse operativo in Lombardia ma con una rete organizzata e diffusa anche in altre città d'Italia, quindi una presenza organizzata, operativa, che aveva come obiettivo l'acquisizione di immobili e di imprese in una zona, una città, una regione importante come Milano e Lombardia. L'usura è un reato che per il 90-95% colpisce piccole imprese, è un fenomeno sommerso, ma gli usurai sono delle figure pubbliche, note negli ambienti. In questo caso il fatto che siano legati all''ndrangheta dimostra la pericolosità di queste reti che, a differenza degli usurai di tipo tradizionali, mirano proprio ad impossessarsi dei beni delle aziende piuttosto che lucrare sugli interessi. Bisogna capire che rivolgere all'usurai non è mai una soluzione. Notizia battuta poco fa dalle agenzie. Una studentessa universitaria è stata ferita in una sparatoria avvenuta in Piazza Dante a Catania presso la facoltà di lettere. Secondo i primi accertamenti la giovane sarebbe stata ferita in maniera accidentale. L'obiettivo della sparatoria sarebbe stato infatti l'esponente di un clan mafioso. L'uomo è stato anch'egli ferito e ha trovato riparo nella vicina caserma dei carabinieri della compagnia Piazza Dante. Andiamo a Siena, domani è il giorno del Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, giorno atteso da senesi e turisti ma preceduto quest'anno dalle polemiche sul drappellone, il panno di stoffa dipinta che si aggiudica la contrada vincitrice del Palio. Quest'anno infatti è stato chiamato a realizzarlo un artista di origine libanese, Ali Hassoun, che dicono i critici ha infarcito l'opera di riferimenti alla religione islamica. Siena Centro, 1 luglio mattina, si parla di Palio e del Palio, il drappellone in seta dipinta. Vi piace il drappellone? Sì. Senta, questo riferimento all'Islam non c'entro, no, sotto quell'aspetto non so. Io. Un drappellone che divide quello commissionato ad Ali Hassoun, artista libanese da tempo attivo tra Siena e Milano. Perché per la prima volta il pittore del Palio è un uomo di fede islamica dichiarata e perché nell'opera realizzata non mancano riferimenti all'Islam, con una citazione della Suria riferita alla Madonna. Prima ancora di vederlo, la Lega Nord senese aveva tonato contro l'incarico ad opera svelata, altri hanno storto la bocca, benché l'arcivescovo di Siena abbia rassicurato i fedeli. Lo stesso artista cerca di stemperare. Ma assolutamente nell'Islam la Madonna è molto riverita e amata. E Sayyidat Nisa al-Alamin, la signora di tutte le donne del mondo. Si mugugna anche nella contrada del drago, nel drappellone, un guerriero trafiggio maligno che sembra proprio l'animale alato. Ai più, in contrada tuttavia, importa soprattutto l'esito della corsa, come spiega una contradaiola della selva. Poi noi abbiamo già la Madonna nera, per cui ci manca quella medio orientale, si potrebbe fare una bella accoppiata, ci starebbe bene. Massimo Sollazzini, GR24, Il Sole 24 Ore, Siena. Restiamo in tema anche se su parti opposte. Al Cairo, in Egitto, un noto ristorante ha deciso di vietare l'ingresso alle donne con il velo. Volevano prenotare un tavolo in quel locale, molto rinomato in città e molto caro, ma no. Il direttore ha risposto che in quel ristorante non vengono accolte donne velate. In Egitto, ha spiegato alle stupite clienti, non ci sono ancora leggi in tal senso, ma lui ha deciso così. Nel suo locale niente velo e niente niqab, neanche se ad indossarlo sono turiste. Il velo integrale, incoraggiato in Egitto dai salafiti, ha suscitato recentemente numerose polemiche, a tal punto che è stato fortemente criticato dal governo egiziano e dall'Università di Al-Azhar, la più alta autorità dell'Islam sunnita. E il velo fa discutere anche in Spagna. Il comune catalano di Lleida, che per primo il mese scorso ha deciso di vietare il burqa e il niqab negli edifici pubblici, ha stabilito una multa fra i 30 e i 600 euro in caso di recidiva per chi non rispetterà la legge. Dopo Lleida, diverse altre città della Catalogna, fra cui Barcellona e Tarragona, hanno annunciato l'introduzione del divieto. Il Senato di Madrid, intanto, per iniziativa del Partito Popolare, ha approvato una mozione con la quale chiede al governo di Zapatero di vietare il velo integrale musulmano in tutti gli spazi pubblici del paese. Maria Piera Ceci, GR24, Il Sole 24 Ore. È uno dei festival musicali più famosi del mondo. Dal 1967 una cittadina svizzera ogni estate diventa la capitale mondiale del jazz. 44 anni di jazz, da Miles Davis a Ray Charles, ma anche David Bowie e Prince, il Jazz Festival di Montreux ha ospitato tutti i grandi della musica. Una tranquilla cittadina svizzera tra le Alpi e il lago di Ginevra che per due settimane è la capitale della musica. Tutto grazie all'antica intuizione dell'ancora attivissimo Claude Nobs, un dipendente dell'ufficio del turismo con la passione per il jazz, passato alla storia della musica come Funky Claude, nella canzone Smoke on the Water dei Deep Purple, che racconta dell'incendio che nel 71 distrusse il casinò della cittadina. L'elenco degli artisti che si esibiranno quest'anno è impressionante. Già sold out gli spettacoli di Phil Collins, Norah Jones, Paco de Lucia, ma ci sono ancora biglietti per Tori Amos, Massive Attack, Yusun Dur, Keith Jarrett, Simply Red, Freedom Band con Chick Corea. Il festival prevede però anche decine di appuntamenti gratuiti che si svolgono nei parchi della città e nei locali. 17 ore di musica dal vivo in media al giorno. Senza contare che a Montreux pare si stia proprio bene. Ci si rifugiarono Charlie Chaplin e Freddie Mercury. Proprio quest'ultimo era solito dire: se cerchi la pace interiore, vieni a Montreux. Uno spot non indifferente. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questo giornale radio che è stato curato e condotto da Laura Bettini con la collaborazione di Anna Migliorati e Maria Piera Ceci. In regia grazie a Paolo Corleoni. Prossimo appuntamento alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.